container per 800 tonnellate di materiali. Le operazioni si concluderanno questa sera. Avremo ospite il ministro dell'Ambiente che si trova sul posto. Sarkozy è ufficialmente in stato d'accusa per corruzione, ma per il momento resta libero. Dopo il fermo in piena notte è stato rilasciato. Nelle intercettazioni parla di giudici bastardi. Il rischio di una spirale di vendette in Medio Oriente. Rapito e ucciso un ragazzo palestinese di 17 anni. Un crimine abominevole, dice Netanyahu. Scontri a Gerusalemme Est e chiusa la spianata delle moschee per timore di incidenti. Vertice tra governo e Alitalia e sindacati sugli esuberi, ma piloti e assistenti di volo non sono stati convocati. Proclamato uno sciopero per il 20 di luglio. Sulle riforme si scatena la battaglia sull'immunità dei senatori. In quali paesi è previsto questo istituto per i parlamentari? Ne parliamo tra poco con un costituzionalista. Scuole aperte fino alle 22, incentivi economici agli insegnanti che lavorano meglio, orario di lavoro allungato, ecco l'ipotesi di riforma elaborata dal governo. Mondiale, il quadro dei quarti di finale completo, la prima partita sarà venerdì pomeriggio, un classico del calcio europeo, Francia contro Germania. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete contattarci, come sempre, il 349-238-6666 per gli sms, Effetto Giorno a radio24.it, c'è anche la nostra pagina Facebook, il mio account Twitter, se volete, Simone Spezia. In apertura parliamo del porto di Gioia Tauro, dove sono iniziate le operazioni di trasbordo delle sostanze chimiche provenienti dalla Siria. Il punto con Andrea Viali. Andrea. Sì, Simone, sta andando avanti con regolarità e dovrebbe concludersi entro stasera a Gioia Tauro il trasbordo di questi 78 container che, lo dicevi nei titoli, contengono circa 800 tonnellate di armi chimiche siriane. Dalla nave danese Ark Futura i container vengono trasferiti nella nave americana Cape Ray, all'interno della quale nei prossimi mesi questo arsenale chimico di Damasco verrà reso innocuo. Le sostanze trasportate sono iprite e sarin. I container vengono trasferiti uno alla volta, ci si serve di gru e rimorchi e non toccano le banchine. Il tutto avviene tra misure di sicurezza imponenti. Chiaramente l'accesso al porto è stato bloccato dalle navi della Marina Militare, ogni altra attività al suo interno è stata sospesa, anche lo spazio aereo è stato interdetto al volo. Ogni passaggio di questo trasbordo è monitorato da vigili del fuoco e personale sanitario pronto ad intervenire, e anche dalla prefettura di Reggio Calabria è stato organizzato un centro di raccolta dati e controllo che sta seguendo ogni passaggio di queste operazioni di trasbordo, che tra l'altro sono riprese in diretta anche da diverse telecamere. Per ora è tutto. Grazie Andrea Viali. Come si dice, a qualche protesta, anche di questo parleremo con Galletti più avanti. Adesso ci spostiamo in Medio Oriente, dove, come vi dicevamo dai titoli, dietro l'angolo sembra esserci una spirale di vendetta dopo l'uccisione dei tre ragazzi israeliani. Mohammed Aboukderi aveva 17 anni, è stato rapito e ucciso, il corpo abbandonato in un bosco vicino a Gerusalemme. Per la sua morte il presidente palestinese Abu Mazen ha chiesto al premier israeliano Netanyahu una ferma condanna, ricordandogli che lui aveva condannato il rapimento dei tre giovani israeliani. È un crimine abominevole, ha ammesso poco dopo Netanyahu, ordinando immediatamente un'inchiesta sull'uccisione del giovane palestinese. Ma ciascuno ha già in fondo la sua convinzione. I palestinesi che la colpa sia degli estremisti ebrei, gli israeliani che quello sia l'esito di una faida tra palestinesi, che nulla ha a che vedere con l'assassinio dei loro tre giovani connazionali. Morti per i quali prosegue la caccia ai responsabili. La notte scorsa le forze di sicurezza israeliane hanno arrestato 42 palestinesi, quasi tutti attivisti di Hamas, inclusi alcuni rilasciati a suo tempo in cambio della liberazione del soldato Gilad Shalit. Ma finora non c'è nessuna traccia dei responsabili. Intanto la polizia di Gerusalemme invece ha chiuso la spianata delle moschee, il monte del Tempio degli Ebrei, per paura di possibili incidenti. Scontri veri e propri si registrano nei dintorni. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo è il quadro dal Medio Oriente. Noi restiamo all'estero e andiamo in Francia, dove è stato ufficialmente incriminato l'ex presidente Nicolas Sarkozy. Marco Mussanei in diretta da Parigi, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Incriminato e però rilasciato, no? Sì, dopo 15 ore di fermo, nella notte, intorno alle 2, è stato formalmente incriminato per corruzione e rilasciato, nel senso che i magistrati hanno deciso di non ricorrere a alcun tipo di controllo giudiziario, quindi Sarkozy è libero ovviamente dei suoi movimenti. Questo per quanto riguarda appunto la sua libertà di movimento, e poi ci sono queste intercettazioni, no, che si stanno diffondendo con contenuti molto pesanti. Beh sì, dalle intercettazioni emergerebbe abbastanza chiaramente dai dialoghi tra Sarkozy e il suo avvocato storico Thierry Herzog, anche lui peraltro indagato per gli stessi reati, emergerebbe che ci sono stati dei contatti tra l'avvocato di Sarkozy e almeno un magistrato, se non due, della Corte di Cassazione, i quali in cambio della promessa di un interessamento a parte di Sarkozy in vista di possibili avanzamenti di carriera avrebbero trasmesso all'avvocato dell'ex presidente delle informazioni riservate sulle inchieste che lo riguardavano. Infatti i reati ipotizzati, oltre a quello di corruzione, sono anche quelli di violazione del segreto istruttorio e di traffico illecito di influenza. Questo per l'aspetto giudiziario. Dal punto di vista dei tempi, a questo punto si apre tutta la fase istruttoria, che dovrebbe durare circa un anno e mezzo, al termine della quale i magistrati dovranno decidere se rinviare a giudizio Sarkozy e quindi mandarlo sotto processo, o se invece optare per un non luogo a procedere. Questo l'aspetto giudiziario. Poi c'è l'aspetto politico, ovviamente. Sarkozy stava preparando il suo ritorno sulla scena politica del paese con la candidatura alla presidenza del partito di centrodestra UMP, che avrebbe dovuto che dovrebbe essere presentata a metà settembre. È chiaro che questa vicenda complica il ritorno in politica di Sarkozy, il quale peraltro parlerà questa sera alle 8 in televisione sul canale TF1 di proprietà dell'amico Bouygues, e spiegherà ovviamente la sua posizione, sicuramente cercando di dimostrare la propria innocenza. La sua innocenza. Intanto io ti ringrazio, grazie a Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, e noi invece ci rispostiamo a Roma, perché inizia l'incontro tra governo, Alitalia e sindacati sulla questione degli esuberi, e inizia già con uno sciopero in ballo, quello dei piloti e degli assistenti di volo. Massimiliano Zampini, ciao, buongiorno, è così, no? Buongiorno a te, Simone. Sì, inizia il tavolo, inizia con il piede sbagliato, almeno da questo punto di vista, perché appunto, come dicevi, c'è uno sciopero proclamato da piloti e assistenti di volo che protestano perché non sono stati convocati a questo tavolo. Tavolo a cui invece stanno prendendo parte i segretari generali di CGIL e CISL e UIL. Il tavolo è iniziato da poco meno di un'ora e appunto si discute dei 2251 esuberi di Alitalia, cioè i lavoratori che Etihad vuole escano definitivamente dall'azienda per arrivare al tanto atteso matrimonio tra le due compagnie. Massimiliano, in realtà piloti e assistenti di volo non sono stati convocati perché non sarebbero coinvolti da questi esuberi, no? Questo non è vero, perché si parla anche di una certa quota di personale navigante, la maggior parte del personale coinvolto negli esuberi è personale di terra e del settore impiegatizio della compagnia, ma c'è anche una quota di personale navigante, quindi piloti e assistenti di volo, su cui si parla anche di possibili soluzioni all'interno di Etihad per i piloti, non per gli assistenti di volo. E quindi insomma la questione è abbastanza controversa, anche perché queste associazioni di categoria dal punto di vista sindacale in Alitalia pesano, e quindi la loro non presenza a questo tavolo indiscutibilmente può aprire un problema. Oggi ci sono delle indiscrezioni che parlano di un possibile punto di caduta a 1500 esuberi, perché l'obiettivo evidentemente è quello di ridurli. Per il momento sono delle indiscrezioni. Angeletti, entrando, ha detto che questi numeri li ha letti solo sui giornali. La Camusso ha fatto capire che la CGIL non accetterà nessun prendere o lasciare sul tema, mentre il leader della CISL Bonanni ha detto che comunque una soluzione va trovata. Qui siamo di fronte a un possibile matrimonio che porterebbe sperabilmente in salvo all'Italia, e il leader della CISL ha fatto capire che bisogna ridurre al minimo l'impatto sociale di questi esuberi, ma una soluzione va trovata. Grazie intanto a Massimiliano Zampini, che seguirà questa vicenda oggi. E invece saluto Gerardo Pelosi, inviato del Sole 24 Ore a Strasburgo. Gerardo, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Per parlare, in realtà è un prediscorso di Matteo Renzi, per così dire, perché oggi interverrà all'Europarlamento a Strasburgo. Che cosa ci si attende, Gerardo? Ma per la prima volta nella sua vita forse Renzi è stato costretto a prendere carta e penna e così a fare un discorso scritto. Poi i suoi collaboratori dicono che lui si prenderà come al solito la libertà di entrare e uscire dal testo. Parlerà in italiano una ventina di minuti, i temi sono quelli che tutti ormai conosciamo da settimane: crescita, sviluppo, occupazione giovanile, agenda digitale, energia, immigrazione alla luce degli ultimi tragici avvenimenti e un piccolo caso, probabilmente non ci sarà la conferenza stampa congiunta a conclusione insieme al presidente, neo presidente confermato Martin Schulz del PSE e al presidente uscente della commissione Barroso, perché rientrerà rapidamente in Italia per partecipare a una puntata in diretta di Porta a Porta proprio sull'Europa, sul semestre di presidenza italiana. Allora, grazie intanto a Gerardo Pelosi, e torneremo a collegarci con Strasburgo nell'arco della giornata. Matteo Renzi, che ha in programma molte riforme, e però molte riforme sono al palo perché mancano i decreti attuativi. I dati sono oggi sul Sole 24 Ore, l'apertura del Sole 24 Ore di oggi. Ci sono 511 decreti tra attuativi, regolamenti e così via che mancano all'appello per dare corpo alle riforme varate non solo dal governo Renzi. Ha curato questa pagina, tra gli altri, Antonello Cherchi del Sole 24 Ore, che saluto. Buongiorno Antonello. Buongiorno a voi. Allora, percentuale di attuazione siamo intorno al... Al 41,7%, al 41,5% è cresciuta leggermente, perché ad aprile eravamo poco sopra il 40%, quindi c'è una percentuale di attuazione, una performance che migliora, ma migliora veramente di pochissimo. E questo, devo entrare un po' nei tecnicismi, è dovuto soprattutto al fatto che molti decreti previsti dalle riforme Monti e Letta, parlo di circa un'ottantina, sono nel frattempo venuti meno. Anche questo, insomma, deve dare da pensare, perché sono diventati obsoleti oppure non c'è più ragione di attuarli. Quindi il fatto che sia diminuito lo stock di decreti attuativi da attuare, nonostante l'ingresso dei decreti di Renzi, ha fatto sì che ci sia questo leggero miglioramento dell'attuazione, però è un miglioramento veramente è poca roba. Sì, molto. Il dato da sottolineare è che rimangono oltre 511 decreti ancora da adottare su uno stock di quasi 900, e che ovviamente sono in arrivo tutte le altre riforme annunciate da Renzi. E quindi naturalmente vedremo che cosa succederà. Il Sole 24 Ore continuerà a monitorare tutto questo. Intanto i dettagli sulle riforme attuate e quelle non attuate li trovate appunto sul Sole 24 Ore di oggi. Grazie Antonello Cherchi. Noi adesso passiamo a parlare proprio di riforme, però in questo caso di riforme istituzionali, perché il dibattito resta aperto sull'immunità. Hanno appena bocciato, tra l'altro, un emendamento di Vannino Chiti, Elisabetta Fiorito, è così, no? Proprio così, è stato bocciato in Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama l'emendamento Chiti per il Senato elettivo. La modifica al disegno di legge del governo era stata firmata, ricordiamo, da 35 senatori, 19 della maggioranza, e riattribuiva al Senato molte competenze legislative in modo da ripristinare una sorta di bicameralismo. Insomma, si è discusso molto di questo emendamento, ricordiamo però la bocciatura è in Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, poi si andrà in aula, Simone. Intanto continua a essere riunita la Commissione e deve esaminare anche l'indennità per i senatori. Ci sono molti emendamenti, su tutti questi c'è però il parere negativo di relatori e governo. Dopo la richiesta poi del Movimento 5 Stelle e la risposta positiva del Premier Matteo Renzi, si va verso un nuovo incontro. Positivo l'aver accolto la richiesta dei grillini, scrivono Luigi Di Maio e Danino Toninelli, per parlare di legge elettorale con l'obiettivo l'obiettivo di dare ai cittadini un sistema di voto entro 100 giorni che garantisca non solo governabilità ma stabilità. Questo scrivono dal Movimento 5 Stelle. Sul fronte di Forza Italia invece Paolo Romani assicura che da domani arriverà una parola quasi definitiva dall'assemblea di partito. Non è invece in agenda un nuovo incontro tra Renzi e Berlusconi e proprio in questi momenti Berlusconi sta facendo il punto a Palazzo Grazioli con i vertici del partito proprio sulle riforme. A te Simone. E grazie alla nostra Elisabetta Fiorito. Riforme, c'è in ballo anche quella della scuola, si immagina un nuovo contratto di lavoro, più ore per tutti i docenti, 36 a settimana, e aumenti di stipendio a chi si prende responsabilità o offre competenze specifiche decise dai dirigenti scolastici. Tutto questo nelle idee del sottosegretario all'istruzione Roberto Reggi, lo ha intervistato Alessandra Schepisi. È una proposta che stiamo elaborando e che poi sottoporremo alla valutazione di tutto il mondo della scuola. Non è che vogliamo raddoppiare l'orario della scuola. L'insegnante ha 36 ore alla settimana di lavoro. È chiaro che solo una parte la dedica all'insegnamento, il resto la dedica a tutte le attività propedeutiche e necessarie a far bene l'insegnamento. Già avviene. Diciamo avviene, ma con un'attività che è assolutamente libera e non incentivata in alcun modo. C'è chi non fa nulla e c'è chi fa tantissimo. Vorremmo noi riconoscere questo impegno, incentivarlo. Il dirigente scolastico deve poter avere a sua disposizione un gruppo di insegnanti che sono disponibili ad fare tutte le attività che ho detto prima. Questa disponibilità verrà richiesta a tutti, cioè ci sarà un nuovo contratto di 36 ore oppure solo chi vorrà, insomma, potrà darla e in base a quello verrà premiato? Ma l'ipotesi è che intanto a tutti verrà chiesta la disponibilità delle 36 ore come dipendenti pubblici. Poi è chiaro che chi più darà disponibilità ci sarà un premio maggiore, come esattamente funziona per tutte le altre professioni. Quindi non è un aumento di stipendio, come dire, automatico per tutti, ovviamente. No, chi dà maggiore... No, è legato alla disponibilità e alla capacità di produrre risultati. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Prosegue il trasbordo delle armi chimiche siriane nel porto di Gioia Tauro. Le operazioni si concluderanno questa sera. Sarkozy ufficialmente in stato d'accusa per corruzione. Per il momento resta libero. Nelle intercettazioni parla di giudici bastardi. Rischio di una spirale di vendette in Medio Oriente. Rapito e ucciso un ragazzo palestinese di 17 anni. La condanna di Netanyahu. Vertice tra governo e Alitalia e sindacati sugli esuberi, ma piloti e assistenti di volo non sono stati convocati e proclamano uno sciopero per il 20 di luglio. Camusso dice non è un prendere o lasciare. Scuole aperte fino alle 22, incentivi economici agli insegnanti che lavorano meglio, orario di lavoro allungato, ecco l'ipotesi di riforma elaborata dal governo. Gianluca Galletti, ministro dell'Ambiente, buongiorno. Buongiorno. Lei si trova a Gioia Tauro, ci conferma che le operazioni si concludono stasera? Sì, siamo ormai circa metà, un po' meno di metà. In questo momento sono stati trasbordati 33 container su 78, quindi questo è avvenuto in circa 5 ore, meno di 5 ore, e oltretutto l'inizio, diciamo, si andava un po' più piano, adesso le operazioni si fanno in maniera più svelta, quindi io credo che entro sera avremo terminato. Lei sa che c'è un po' di preoccupazione della popolazione, c'è anche gente che protesta là fuori con striscioni, con scritto politici dove siete? Ma no, sinceramente io sono stato a Gioia Tauro e sono ancora qui e le posso dire che queste striscioni non ci sono proprio. Non c'è nessun tipo di protesta, anzi devo dire che io stamattina ho incontrato i sindaci delle comunità locali, sono venuti ieri i membri della commissione esteri, Senato e Camera in visita, io li ho incontrati questa mattina e da tutte queste persone non ho assolutamente recepito uno stato di allerta, perché questa volta, di questo voglio ringraziare il prefetto, le forze dell'ordine, la Marina Militare, la Capitaneria di Porto e tutte le istituzioni che hanno contribuito, è stata fatta un'operazione trasparente con un'informazione buona. Lo dico perché questo ci deve essere utile anche in futuro per operazioni dove la collettività è chiamata giustamente a controllare quello che avviene sul proprio territorio. Allora è chiaro, Ministro, che un'operazione come il trasbordo delle armi chimiche in arrivo dalla Siria o del materiale chimico in arrivo dalla Siria è una cosa che capita, per così dire, una volta ogni tanto, insomma, non è che capita sempre, però diciamo che il porto di Gioia Tauro si può prestare ad altre operazioni, per così dire, di questo genere, cioè di questa importanza? Ma guardi, i trattati internazionali che oggi impongono all'Italia operazioni di questo genere, io non ne sono a conoscenza. Però mi piace dire un'altra intendo cosa. Di questo genere intendo di questa importanza, Ministro, naturalmente. Cioè, insomma. No, sì, non ne sono a conoscenza di operazioni militari che interessano il porto di Gioia Tauro. In questo momento non sono a conoscenza di accordi firmati nel nostro paese. Però noi non dobbiamo vedere questa operazione solo dal punto di vista del trasferimento tecnico del trasferimento delle armi chimiche. Cioè, noi di questa operazione dobbiamo andare orgogliosi. Noi siamo stati determinanti in un'operazione che assicura la sicurezza del mondo e la pace. Cioè, la dobbiamo vedere sotto questo punto di vista. È l'affermazione di un valore. E io che sono stato in quella zona stamattina, ho visto la professionalità dei nostri operatori, ho visto le tecnologie avanzate che abbiamo adottato e ho visto un'altra cosa che mi ha colpito. Ho visto l'orgoglio di partecipare a questa operazione e l'ho visto in una zona, Gioia Tauro, nella regione Calabria, che noi abbiamo sempre considerato una regione di serie B. Allora oggi mi sono reso conto che non ci sono posti di serie A e serie B in Italia. Possono essere tutti posti di serie A, se c'è professionalità, se c'è l'orgoglio, se c'è la voglia di mostrare il lato buono del paese. Un'ultima domanda le faccio, Ministro, perché tanto ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, e visto che siamo sul mare, restiamo sul mare. Ci sono preoccupazioni invece da parte di una parte della popolazione locale toscana in particolare in merito al trasferimento della Costa Concordia, a questi 5 giorni che dovrà passare per arrivare a Genova a partire dal 20 luglio. Si sente di rassicurare anche le organizzazioni, le associazioni ambientaliste? Io le posso dire questo, intanto il dato positivo è che la Concordia resta in Italia, la smaltiamo in Italia e lì abbiamo affermato un principio giusto. Noi abbiamo avuto una tragedia in Italia, perdita di vite umane, perdita economica, ed è giusto che i ritorni economici, che non compensano certo le vite umane che abbiamo perso, comunque sono importanti, restino in Italia. Quindi con soddisfazione dico che il primo risultato l'abbiamo ottenuto. Il secondo risultato che abbiamo ottenuto è di trasferirla nei tempi che avevamo previsti, e secondo me quando si rispettano i tempi si dà credibilità alla politica. Lo faremo con la massima attenzione e abbiamo dato delle prescrizioni che riducono i danni ambientali al minimo. Detto questo, la proprietaria della Concordia è la Carnival, che si assume la responsabilità del trasporto, tutti i costi inerenti, e se ci dovesse essere qualcosa saranno loro i responsabili, ma dovranno attenersi a tutte quelle prescrizioni che noi gli abbiamo dato. È chiaro che vigileremo anche noi insieme alle società ambientalistiche per fare in modo che questa operazione si concluda in maniera positiva. Grazie a Gianluca Galletti, Ministro dell'Ambiente, e c'è in studio con me Gianpaolo Musumeci, collega che ben conoscete. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Allora, ritornerà il 28 di luglio con la trasmissione che ormai ci accompagna tutte le estati, che sì. Nessun luogo è lontano, tutti i giorni in onda a che ora? Alle 16. Ma in realtà ti abbiamo chiamato per questo motivo. Sei autore di un libro che si intitola Confessioni di un trafficante di uomini, nel quale racconti una serie di storie che noi abbiamo ritrovato questa mattina sui giornali, in realtà più strettamente legate alla cronaca, con altri protagonisti, e però la vicenda è sempre sempre quella, quella che ci appare una crudeltà senza fine. I racconti, le intercettazioni di questi trafficanti di uomini, appunto, le persone che fanno arrivare gli immigrati sulle nostre coste e che dicono sostanzialmente sono morti, è colpa loro. Sì, beh, intanto fa parte del processo di autoassoluzione dei criminali, no? I trafficanti di uomini sanno benissimo che cosa compiono, però c'è anche un modo di raccontarsi e di raccontarsela. Siamo di fronte, e un po' è stata intaccata quella scorza che li protegge, no? Con queste ultime intercettazioni, siamo di fronte alla più grande agenzia di viaggi illegale del mondo. È una multinazionale con basi, l'abbiamo sentito in quest'ultima indagine, a Khartoum, con basi in Italia, con basi in Libia. È una rete criminale fluida, fatta di tanti nodi. Uno scafista che abbiamo incontrato in carcere ci ha detto: avete presente Facebook? Ecco, noi siamo così, siamo amici, siamo in tanti e ci parliamo. E arrestare lo scafista non significa quasi nulla, nel senso che è come prendere il piccolo trafficante di droga, no? Prendi il pusher o il corriere, ma il giorno dopo c'è un altro pronto a sostituirsi. E arrivare ai grossi, ai boss del traffico di esseri umani, quello è molto più difficile, perché loro sì che stanno al sicuro, perché magari stanno in paesi dove la collaborazione di giustizia è molto molto difficile. Quindi difficilissimo arrestarli. Io torno a farti una domanda, abbiamo già parlato del tuo libro, però torno a farti una domanda perché la polemica su questo resta alta, no? Oggi l'ammiraglio Filippo Maria Foffi, comandante della squadra navale della Marina, a margine di un incontro sul tema dell'immigrazione, dice: non è corretto affermare che l'operazione Mare Nostrum provochi un aumento dei migranti. È vero però che è una sorta di assicurazione per gli scafisti, per i trafficanti questa. Sì, allora intanto bisognerebbe... Cioè, posto naturalmente che è un'operazione umanitaria, certo. No? Per cui non puoi lasciar morire la gente in mare, sì. però il tema c'è. Allora, è una costosissima, ribadiamolo, operazione umanitaria. Sicuramente accendi i riflettori su un fenomeno. Non possiamo dire quanti non sarebbero partiti se non vi fossero le nostre navi che pattugliano. Sicuramente però i trafficanti lo sanno, cioè il traffico di esseri umani non è un affare da sprovveduti, da improvvisati, sono professionisti del crimine, leggono i giornali, stanno anche qua in Italia, ci stanno ascoltando adesso, sanno perfettamente come funziona. E sicuramente in quest'ultimo periodo alcuni trafficanti hanno utilizzato trasporti, diciamo, low cost, cioè tu paghi poche centinaia di euro e ti assicuri di fare quelle poche miglia marine prima che poi qualche barca militare italiana vada a pescarti. Questo sicuramente. Sono attenti, girano quei giornali sotto il braccio, conoscono le leggi italiane e si informano. E sono imprenditori che colgono le opportunità. Se Mare Nostrum è un'opportunità, loro sono lì pronti a coglierla e a fare soldi. E grazie. Il libro, grazie, ve lo ricordo, è Confessione di un trafficante di uomini, edito Chiare Lettere. E poi ritrovate il nostro Musumeci a partire dal 28 luglio con Nessun luogo è lontano. Mi ha raggiunto intanto in studio Carlo Genta. Ciao Carlo. Ciao Simone, buongiorno. Naturalmente, per fare un punto sui quarti, perché non è che tutti seguono tutto, e quindi vediamo di riassumere quali saranno questi quarti di finale dei mondiali. Dunque, la notizia è che passano tutte le squadre pronosticate, e l'altra notizia è che fanno una fatica bestiale a raggiungere questi quarti di finale, spesso all'ultimo istante, spesso dopo i supplementari o addirittura all'ultimo rigore. Però le più forti sono tutte lì, i quarti di finale si aprono a Rio de Janeiro venerdì alle 18 con quella che è forse la partita più intrigante, quella con maggiore fascino, cioè Francia-Germania, vecchio derby d'Europa. Nello stesso giorno c'è invece il derby del Sud America. Direi che venerdì sarà il giorno in cui avremo i due quarti di finale più eccitanti, sempre venerdì alle 22 però a Fortaleza, Brasile-Colombia, e poi sabato si va con le altre, l'Argentina che ieri ha fatto una fatica pazzesca a superare la Svizzera, e ci ha voluto un supplementare e solo alla fine del supplementare ha segnato Di Maria. Dunque Argentina che si qualifica, stessa sorte più o meno per il Belgio, che pur ha sudato sette camicie per battere gli Stati Uniti, alla fine ce l'ha fatta. Argentina e Belgio che si sfideranno sabato alle 18 a Brasilia. Chiuderà il programma quello che è forse, che dovrebbe essere l'incontro più scontato, dall'esito più scontato. C'è l'Olanda che incontra la nostra amica Costa Rica sabato alle 22 a Salvador, e dunque l'altra semifinalista uscirà da questa partita. Simone. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. All'Italia, il presidente del consiglio di gestione di Intesa San Paolo, Gianmaria Grospietro, dice che senza la piena adesione del sindacato al piano industriale non siamo disposti a partecipare al finanziamento. Questa mattina Susanna Camusso aveva detto: non esiste prendere o lasciare. Prosegue il trasbordo delle armi chimiche siriane nel porto di Gioia Tauro, 80 container per 800 tonnellate di materiali. Le operazioni si concluderanno stasera. Il rischio di una spirale di vendette in Medio Oriente. Rapito e ucciso un ragazzo palestinese di 17 anni, un crimine abominevole, dice Netanyahu. Sarkozy ufficialmente in stato d'accusa per corruzione, ma per il momento resta libero. Sulle riforme si scatena la battaglia sull'immunità dei senatori. Tra poco parleremo con un costituzionalista, esperto di immunità, per capire come funziona negli altri paesi. Intanto la borsa. Borse in diretta. Ed è una giornata quella di oggi positiva, il FTSE MIB guadagna lo 0,8%, il FTSE Share lo 0,78%, con l'Europa che vede Parigi salire dello 0,03%, Francoforte dello 0,24%, Londra dello 0,34%. Isabella Tasso, Radio Cori, Sole 24 Ore, ciao e ben ritrovata. Buongiorno. Allora, mi sembra che stiamo recuperando qualcosa rispetto a una serie di sedute negative. Sì, dopo il ribalzo di ieri, Piazza Affari continua a salire, questo sulla scia dei nuovi massimi toccati ieri da Wall Street, che danno un clima positivo a tutti i listini continentali. Milano fa anche meglio, con acquisti generalizzati su tutto il listino, ancora una volta denaro sulle banche, in particolare le popolari. Popolare di Milano sale del 2%, la BPM del 2,5%, vola Mediaset che fa più 3%, dopo che il vicepresidente esecutivo Pier Silvio Berlusconi ha indicato come vicina una svolta sul dossier della Pay TV spagnola e ha confermato che la società è in contatto con la TV del Qatar, Al Jazeera e altri operatori per eventuali partnership sulla Pay TV Premium in Italia. Allora, grazie intanto a Isabella Tasso di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Tra l'altro Pier Silvio Berlusconi ha anche parlato di Matteo Renzi, vedremo se saremo in grado più avanti di farvi sentire la voce, con tanti complimenti. Grazie Isabella intanto e buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E ieri, come sapete, si è votato nell'ambito del processo di riforme costituzionali a favore dell'immunità per i nuovi senatori, quelli che arriveranno di questa nuova Camera delle Autonomie, se così vogliamo chiamarla, che arriverà dopo il disegno di riforma. Abbiamo deciso di capire come funziona negli altri paesi. Claudio Martinelli è docente di diritto costituzionale comparato all'Università Milano Bicocca e autore di un libro, Le immunità costituzionali nell'ordinamento italiano e nel diritto comparato, quindi nessuno di più adatto a spiegarcelo. Buongiorno professor Martinelli. Buongiorno a lei, gli ascoltatori. Ci dice come funziona negli altri paesi, capisco che è un po' generico, però se esistono altri paesi nei quali c'è un istituto di questo tipo, quanto è diffuso soprattutto? Ma il panorama del diritto comparato ci offre una gamma di soluzioni estremamente variegata. Se diciamo, vogliamo fare una distinzione, inserire una categoria, possiamo dire che il mondo anglosassone ha un basso livello di immunità parlamentari e il mondo eurocontinentale invece tradizionalmente è più protettivo. Bisogna però introdurre un'ulteriore distinzione a mio avviso, e cioè da una parte tenere quella che noi chiamiamo l'insindacabilità parlamentare, cioè la possibilità per il parlamentare di esprimersi nella maniera più ampia possibile senza temere conseguenze dal punto di vista giuridico, per giuridico intendo penale, civile, amministrativo, disciplinare. Da questo punto di vista anche il mondo anglosassone è molto fornito, anzi la Gran Bretagna ha inventato questa prerogativa che loro chiamano freedom of speech and debate, appunto la libertà di discorso e di dibattito. Da questa immunità però, che anche nel nostro ordinamento è disciplinata all'articolo 68 primo comma, bisogna tenere distinte le immunità diciamo più di carattere processual penalistico. E il tema mi sembra quello però, professor Martinelli, no? Il tema caldo in questo momento è questo, però partiamo da che cosa prevedono le immunità italiane, perché qui si fa spesso molta confusione. diciamolo con forza, non esiste più l'istituto dell'autorizzazione a procedere dal 1993. Esiste la necessità di ottenere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza per tutti quegli atti, diciamo, lesivi della libertà personale del parlamentare e lesivi della segretezza della corrispondenza. In altri paesi noi abbiamo ancora l'istituto dell'autorizzazione. Ossia, la semplifico, professore, sì. Le Camere devono autorizzare esplicitamente sì. l'arresto sì. o l'intercettazione, in sostanza, sì. ma non il fatto che i magistrati indaghino su un parlamentare. Esattamente, prendiamolo dal punto di vista del magistrato. Il magistrato può sottoporre a indagini penali il parlamentare senza nessuna necessità di autorizzazione, che invece era prevista fino alla riforma del 93. Allora, questo tipo di immunità esiste in altri paesi oppure no? Cioè il Certamente. Fatto che la Camera si debba ed esiste in altri paesi europei, tanto per dire? Esiste in altri paesi, direi soprattutto paesi europei. In alcuni paesi, come per esempio la Spagna, esiste ancora l'istituto, e anche la Germania, l'istituto dell'autorizzazione a procedere, quindi con una copertura ancora maggiore rispetto a quella che abbiamo noi. Però qui, da questo punto di vista, è importante dire una cosa, e cioè che istituti come questi, cioè diciamo in generale le immunità, che hanno una tradizione lunghissima, risalgono proprio agli albori del costituzionalismo, ad oggi non vanno valutati in astratto, ma vanno valutati nel concreto come le istituzioni le applicano. Il problema, perché spesso si fa riferimento, sì. si dice esisteva, i nostri padri costituenti hanno voluto sì. l'istituto. Ecco. Quello che è importante vedere è come è stato applicato in decenni di storia repubblicana. Tutti ci si ricorda che questo istituto è stato abrogato nel 93 in piena Mani Pulite, sì. però non si ricorda mai che quello fu, diciamo, la goccia che fece traboccare il vaso, perché di applicazioni abnormi e molto discutibili e criticabili ne erano state fatte tantissime da parte delle Camere, tant'è vero che si parlava non più di immunità, ma nella polemica giornalistica di impunità parlamentare. Sì. Quindi teniamo conto anche di questo. In altri paesi dove pure albergano questi istituti, ripeto, in alcuni sì. casi come quello spagnolo, tedesco, addirittura le chiedo, più ampi del sì. nostro, però la loro applicazione è molto più ragionevole. Ragionevole. Allora, io intanto la ringrazio, professor Credo. Claudio Martinelli, docente di diritto costituzionale comparato all'Università di Milano Bicocca e autore delle immunità costituzionali nell'ordinamento italiano e nel diritto comparato. Andiamo a chiudere parlando di questa vicenda. Parliamo di Beatrice Ballerini, che fu uccisa dal marito nel 2012, Massimo Parlanti, reo confesso, condannato a 18 anni. Oggi apprendiamo da una petizione online lanciata dal fratello di Beatrice Ballerini che quest'uomo, Massimo Parlanti, l'assassino della moglie, riceve il 60% della pensione della sua consorte che ha ucciso. Saluto Gabriele Uselli, che è direttore centrale pensioni dell'INPS. Buongiorno Uselli e benvenuto. Buongiorno. Com'è possibile? No, allora, innanzitutto non parliamo del caso specifico, ma parliamo No, certo, generale. Certo che parliamo. Io le chiedo, quando le chiedo com'è possibile, intendo com'è possibile che avvenga una cosa di questo genere. Non può avvenire una cosa del genere, perché il legislatore ad agosto del 2011 ha posto rimedio, per cui ha stabilito che tutti coloro che sono condannati per omicidio preterintenzionale o per omicidio determinato da altri fatti dolosi, da altri reati, non può percepire la pensione di reversibilità o dei superstiti. Quindi questo fatto non può avvenire e ritengo che non sia avvenuto. Quindi questo proprio perché già nel 2011, a seguito di questa legge, l'istituto aveva provveduto in questo senso. E anche facendo riferimento al caso concreto, la sede di Montecatini aveva operato correttamente e aveva sotto attenzione il fatto, la fattispecie, quindi la norma non prevede che possa essere pagata la pensione superstiti o di reversibilità nel caso di suicidio. Potrebbe esserci stato un qualche errore dunque, Uselli? No, non c'è stato nessun errore. E le ripeto, la questione era esattamente all'attenzione, io non so quali informazioni siano state date ai familiari, però le ripeto, ci eravamo attivati, abbiamo cambiato la domanda di pensione dove c'è la dichiarazione di responsabilità proprio di non aver avuto le sentenze passate in giudicato, abbiamo scritto al Ministero di Giustizia perché ci siamo attivati anche per sapere, visto che la norma pretendeva, imponeva anche di revocare le pensioni che erano già in pagamento, quindi abbiamo scritto al Ministero di Giustizia per farci dire chi erano i condannati. reati. Attenzione che la legge prevede una condanna che sia passata in giudicato, quindi che sia una condanna definitiva, e quindi a questo punto si applica la legge 125. Mi scusi Uselli, questo diciamo così dal punto di vista da tecnico delle pensioni, per così dire, a questo punto questo vale per tutti gli istituti che erogano pensioni, e quindi voglio dire una regola generale? Sì, perché la legge 125 l'ha introdotta per tutti, proprio appunto per tutti gli istituti previdenziali, quindi, per tutti gli istituti previdenziali. Quindi la stessa cosa potrà praticamente avvenire anche per ovviamente. Ma quindi sul caso specifico a voi non risulta che ci sia questa erogazione nei confronti del condannato? La ringrazio, grazie a Gabriele Uselli, direttore centrale delle pensioni INPS. Ci prendiamo una pausa per il traffico e poi Platero. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. We USA. Barack Obama, il presidente americano, anche lui ci ha creduto fino all'ultimo, l'avete sentito, incitava USA e parlava a un gruppo di persone, poi di soppiatto si è sganciato e ha cominciato a fare una specie di coro dicendo go America e tutti che lo seguivano. Questo naturalmente avveniva poche ore prima della grande delusione, il caso di dirlo, l'America è uscita dai mondiali, uscita dalla Coppa del Mondo, è uscita, come dire, a testa alta, ma con molta amarezza, perché pensate al 90esimo, anzi al 91esimo, era già in recupero di un minuto, c'è stata la possibilità del gol che avrebbe qualificato gli Stati Uniti ai quarti di finale. Invece si sono mangiati l'occasione, il Belgio ne ha approfittato nei supplementari, ha infilato due gol, poi l'America con grande orgoglio ha fatto a sua volta un gol quasi all'inizio, sono stati poi 20 minuti drammatici. Ecco, come sempre vi dicevo, io sono un po' sceso qui sotto a Stone Street, dove ci sono tutti questi bar pieni di gente. Ecco, questo è stato quando, nei tempi supplementari, di nuovo uno degli attaccanti americani, devo dire dopo una bellissima azione su una punizione orchestrata che ha funzionato benissimo, per un pelo, si sono mangiati il gol che avrebbe potuto portare al pareggio. Il Belgio alla fine era scoppiato, non ce la faceva più. Dunque un'America che esce da questi mondiali, devo dire, a testa alta, un'America che ha gustato, che ha sperimentato, credo per la prima volta davvero, l'importanza di una partita di calcio. Perché qual è la teoria? La teoria è che gli americani si annoiano davanti a una partita di calcio, perché magari è 0-0 fino alla fine, non succede nulla, mentre invece loro sono abituati al punteggio della pallacanestro che cambia in continuazione, al punteggio anche del football americano che cambia anche lui in continuazione, ci sono molte azioni che possono portare punti. Ecco, invece hanno, secondo me, con questo mondiale fatto un salto qualitativo importante gli americani, hanno capito che nella partita si può soffrire, si può partecipare anche senza fare subito gol. E devo dire che il momento di sofferenza che c'è stato negli ultimi 18 minuti dei tempi supplementari, in cui l'America era disperata, cercava di far gol a tutti i costi, credo che non li dimenticherà mai nessuno, nell'amarezza naturalmente, perché poi la partita alla fine è andata perduta, ma lascerà un segno. Si tratta di capire adesso, per l'ennesima volta, se si riuscirà a trasferire questa passione per la nazionale, che ovviamente unisce come in ogni paese la popolazione, ha la passione per un torneo che ancora non ha preso corpo, o meglio, il torneo c'è, ma non ha la presa sull'opinione pubblica che hanno gli altri giochi. Insomma, alla finale del torneo, del campionato di calcio americano, non c'è quel pubblico che abbiamo visto a questi mondiali o quel pubblico che vediamo alle partite di baseball, le partite di football, di pallacanestro. Succederà? Ma secondo me sì, e sapete perché? Perché c'è una motivazione economica dietro. Ci si è accorti che il pubblico c'è, che resta incollato alle televisioni, che la pubblicità funziona. Soprattutto ci sono i consumi. Hey, what's happening, B? None, just chilling, watching the game, having a bird. Beh, una delle curiosità del match parallelo di ieri sera riguarda la birra. Come vi raccontavo da uno dei bar in cui sono andato, la cosa che mi ha colpito di più è che questi americani si bevevano come niente un litro di birra e via, litri di birra uno dietro l'altro, questi bicchieroni enormi. E non so quanta birra sia stata consumata durante questo mondiale, lo sapremo presto immagino, perché gli americani sono bravissimi con le statistiche. Però c'è stata una partita parallela, e cioè Stati Uniti-Belgio, proprio sulla produzione di birra, perché se alcune birre belghe come Long Garden vengono importate negli Stati Uniti, altre come le birre bianche, tra cui la Blue Moon, sono state cooptate e prodotte dai birrai americani. La risposta belga non si è fatta attendere, c'è una battaglia fortissima all'Artois, pensiamo alle meravigliose birre belghe, e nel 2008 la InBev, che è il maggiore, oggi il maggiore produttore al mondo di birra per quantità prodotta, ha acquistato l'Anheuser-Busch, che, come dire, è la leggenda della birra americana, specializzata in generale nella produzione di bevande alcoliche e analcoliche, ma che produce soprattutto un simbolo americano come la Coca-Cola, come il McDonald's, la Budweiser, la birra per eccellenza, che domina per esempio nelle pubblicità del Super Bowl. Sulla birra Budweiser e sull'Anheuser-Busch oggi c'è il timbro belga. Only a chocolate this pure can be this silky. Altra rivalità, insomma, lo avete sentito dalla piccola registrazione che vi ho fatto ascoltare, è la cioccolata. Beh, insomma, la cioccolata belga è fantastica, pensate, Godiva, Newhouse, solo per citare un paio dei marchi. Tra l'altro il Belgio riesce ad affermarsi nella produzione di cioccolata grazie agli antichi possedimenti coloniali in Congo, da dove importava i semi di cacao. In America invece c'è la Hershey e c'è la Mars, insomma è uno scontro molto interessante, anche perché devo dirvi che quando passeggio su Madison Avenue vedo molti più negozi di Godiva o Newhouse che non di Mars o di Hershey. Quindi i belgi stanno battendo gli americani addirittura sul territorio del consumo. Ultimo confronto, le patatine fritte. Insomma, gli americani si vantano, insomma, di essere grandi produttori di patatine fritte, e si pensava che fossero di origine francese. In realtà i belgi reclamano che le patate fritte le hanno inventate loro. E quindi chissà, ieri sera, dopo la sconfitta, dopo la tragica uscita degli Stati Uniti da questa Coppa del Mondo, gli americani si saranno ingollati in gran quantità di birra belga, di cioccolato belga, e chissà, pure con patatine fritte, con la matrice del Belgio. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, un collezionista americano ha trovato, pensate, ieri 149 dischi di vinile, quindi antichi dischi, di Bob Dylan, e sono dei dischi che raccolgono delle canzoni in work in progress, non finite, studiate, alcune che poi sarebbero diventate delle canzoni importanti, ma altre mai terminate. Insomma, una grande scoperta per la cultura americana. E quindi celebriamo Bob Dylan, e visto che gli americani ieri per un attimo si sono avvicinati alle porte del cielo con questi mondiali, beh, non posso che proporvi Knock Knock Knock on the Heaven's Door di Bob Dylan. Knocking on heaven's door. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Prima di chiudere, un'ultima notizia: una settantina di migranti risultano dispersi nel naufragio di un gommone avvenuto nei giorni scorsi nel canale di Sicilia. Maggiori dettagli tra un attimo in GR24. Intanto ringraziamenti a Filippo Aureggi in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre, i nostri contatti effettogiorno@radio24.it, il mio account Twitter Simone Spezia, la nostra pagina Facebook. Ci sentiamo tra poco appunto con GR24.